Dottor Gimeli, uno degli elementi più interessanti forse del Mad Expo di quest'anno è il progetto Civitas, queste quattro vie quasi a comporre una città ideale. Ci vuole illustrare meglio? Volentieri, il tentativo era proprio questo, era quello di immaginarsi che i temi di una città rispetto all'abitare sono temi forti e importanti per tutti. Abbiamo pensato che fosse giusto contestualizzare i prodotti dentro i temi e non più limitarsi a esporli negli stand. Quindi abbiamo fatto un esperimento molto ardito, cioè in 3.000 metri quadri abbiamo chiesto a un grande scenografo di dare ai temi una loro efficacia visiva. I temi sono il silenzio, la sicurezza, l'energia e l'altezza intesa come il costruire senza occupare troppo suolo. E poi abbiamo chiesto alle nostre aziende, che sono le aziende leader nel mondo, di riempirle di prodotti che raccontassero se stessi. Ed è una sfida che sta riuscendo moltissimo, perché notiamo che il visitatore riesce a seguire molto meglio il ragionamento, dove l'obiettivo è quello di far capire a chi costruisce, a chi progetta, ma anche a chi abita, che fare scelte ragionate nel decidere i modi in cui si costruisce e i componenti che si utilizzano fa la differenza fra avere città sicure, silenziose, non inquinate e con grandi spazi verdi, oppure avere città come quella in cui viviamo probabilmente entrambi, dove non sai dove portare tuo figlio fuori e ti parli ad alta voce anche in sala perché il rumore è troppo. Qui ci sono prodotti che da soli raffrescano la casa, la riscaldano, consentono di accumulare energia, la tengono sicura senza incidere sul bilancio ambientale della città, e questo è molto. Le nostre aziende sono molto contente proprio perché è un po' un modo diverso di fare fiera. In particolare tra i vari prodotti che sono qui presentati ce ne vuole scegliere e presentare un paio che le ritiene più significativi? Me ne vengono in mente uno che è eclatante, probabilmente lontano da il grandissimo pubblico, è la facciata continua, quindi vuol dire quello che compone un grattacielo più resistente alle esplosioni che c'è al mondo, che è esposta di là. È una facciata che ha fatto una prova con 4.000 kg di tritolo ed è rimasta lì vetro compreso, il che per dire una battuta vuol dire che essere dentro si muore di paura ma incolumi. È l'esempio di fino a dove si può arrivare. Io credo che anche la maggior parte dei progettisti non sappia che si può realizzare strutture senza che siano chiuse, opache ed enormi, e che pure resistano. L'altro è proprio la via che abbiamo alle spalle, che è una via dove ci sono esempi di serramenti di facciata con dei film fotovoltaici all'interno che consentono di pensare che la casa si autoproduca energia da sola, per esempio, e che sia completamente autosufficiente. Una città più sicura, più silenziosa, più pulita, insomma, è un sogno che secondo lei può non essere così realizzabile nel prossimo futuro? È un sogno che la tecnologia già rende assolutamente praticabile, e adesso per essere realizzabile ci vuole che chi decide continui a decidere, per esempio per gli incentivi del 55%, per esempio per una legge sulla termica che mantenga le sue premesse, e dall'altra parte che ci sia la consapevolezza nell'utente e nel progettista che l'investimento di oggi è un investimento che serve per domani. Però il fatto che le premesse tecnologiche ci siano rende tutti un po' più ottimisti. Ultima domanda, uno sguardo al 2010 dopo un 2009 che non è stato facilissimo. Il 2010 come si è aperto e quali sono le prospettive? Quello è più duro, nel senso che il 2009, per esempio per il nostro comparto che sono i vetri, le facciate, i serramenti, è stato un anno molto difficile, ma che ancora aveva la coda di tutti i progetti degli anni precedenti. Il 2010 si presenta come un anno sostanzialmente senza certezze, il che per un'industria è sempre molto preoccupante. Siamo molto preoccupati dei grandi progetti che non stanno partendo, temiamo che sia un anno di grande contrazione per quello che riguarda il sistema serramenti. Se il governo non confermerà il 55% per il 2011 e il 2012, già il 2010 rischia di essere un bagno di sangue.